Allora, benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa, dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. (06 49 17 50) il contatto telefonico. Enemy, my Africa, want to be free. Oh, Africa, Africa, Africa, want to be free. Mama Africa, Africa, want to. E vi ricordo anche che oltre ai contatti telefonici, il conto corrente postale, perché Radio Onda Rossa non fa pubblicità da 35 anni, libera nell'etere romano e laziale, e quindi prendete l'appunto, il conto corrente postale è il 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa, via Volci 56, Roma. If that is for my people, I don't know who can try to be my enemy. My Africa wants to be free. Oh, Africa, Africa, Africa wants to be free. Mama Africa, Africa wants to be free. Oh, Africa, Africa. E allora, 16.37, iniziamo senza indugio con le nostre selezioni per questo sabato. E allora lui si chiama Johnny Astrup, e nonostante il nome è nigeriano, una delle stelle dell'afro rock durante gli anni 70 insieme a Orlando Julius. E allora dal suo Wake Up Your Mind ci ascoltiamo proprio il brano che si intitola Wake Up Your Mind, e lui è Johnny Astrup from Nigeria. Wake up your mind, wake up, wake up, wake up your mind, wake up. Everything. We have to open our eyes so we can see where we are going. brothers, it's about time, yeah. So wake up, Africans. Wake up your mind. Wake up your minds, svegliate le vostre menti. E lui, insomma, uno dei protagonisti della scena dell'afro rock degli anni 70 in Nigeria. Mentre invece quello che ci ascolteremo adesso si chiama Geraldo Pino, un nome che in qualche maniera latinizzato perché così andava di moda. Lui viene dalla Sierra Leone ma ha suonato in Ghana e poi a Lagos, dove Fela Kuti fu impressionato dalla sua capacità, della sua potenza, dal modo in cui lui reggeva lo spettacolo. E allora, African Must Unite, l'Africa deve essere unita, lui è Geraldo Pino. Thank you. E allora lui con questo brano che inizia piano piano ma poi diventa travolgente dall'album Ivi Ivi Ivi, lui è Geraldo Pino e i suoi Headbackers. E allora l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico, questa è Radio Africa, loro invece vengono dal Kenya e li sentite questo inizio esplosivo. Keniano, un gruppo che poi aveva una grande capacità di interpretazione dal tarab al funk. Questo brano è un brano degli anni 70, dell'inizio degli anni 70, si chiama Mabala. E allora l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico. Loro invece vengono dal Sudafrica, da Soweto, Philippe Malela con il suo brano Tibakamo. E allora Philippe Malela. Oh, Philip Malela con i suoi Flaming Soul che aveva fatto muovere le township soprattutto di Soweto e ancora Sudafrica. Lui è uno dei più grandi musicisti sudafricani, Hugh Masekela, e ce l'ascoltiamo in questo brano Diambo. Masekela in questo brano, che è un brano che ha anche delle sonorità latine. Sono quasi le 5 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa, vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. E allora andiamo ancora avanti dal Sudafrica, passiamo alla Nigeria, lui si chiama Ephraim Zeka, e un album registrato in Francia, Ephraim Zeka che si confronta con i brani di Fela Kuti, e questa è la sua interpretazione di Zombie. Now listen, damn it, we hear about Zanzibar, song. go fight. No breath, no jam, no sense. Tell them to go run. No breath, no jam, no sense. Tell them to go kill. No breath, no jam, no sense. Questo zombie e voi sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Lui si chiama E.T. Mensa, il suo gruppo I Tempos è stato uno dei padri dell'High Life, suonò addirittura con Louis Armstrong. E allora il brano è Save Me. Save me now. Come on. Allora, questo era un pezzo afro-latino, loro si chiamano Nico Gomez e Afro Percussion, suonavano a Londra, ma insomma le sonorità sono decisamente latine. Lui è invece Manu Dibango, Weya. Ma cosa? Je moye. Ma cosa? Nanje. Cosa? We'll be right back. c'est bon. Allora lui era Manu Dibango in questo brano Weya, e voi siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 17:18. Questa è Radio Africa. Radio Africa, con la nuova programmazione del sabato, si prolunga fino alle 18, e nell'ultima mezz'ora avremo occasione di fare un approfondimento, come cerchiamo di fare tutte le settimane, su una tematica che riguarda le questioni africane. In particolare in questo pomeriggio ci occuperemo delle elezioni in Senegal con Serena di Africa in Movimento. Vediamo se il microfono ti funziona. Ci sei? Sì. Eccoti qua. Ciao a tutti. Ti sento. Bene, e quindi, ma noi ancora abbiamo una decina di minuti per la musica, ma anche per la memoria, perché ci ricordiamo che il 17 gennaio del 1961 fu ucciso Patrice Lumumba, ebbene il padre dell'indipendenza del Congo, vittima molto probabilmente della contrapposizione all'epoca bipolare fra USA e URSS, Lumumba, che cercò insomma di dare al Congo una visione diversa. Ne abbiamo già parlato quando appunto abbiamo ricordato l'anniversario, però questa volta sono i 50. E allora, lui si chiama Balogi, vive in Belgio ed ha tirato fuori questa versione di Independence. Ciao. Le jour d'après, 1er juillet, promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, grillage et recel, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelles en parcelles. Gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. Indépendance, j'appuie, t'as rien moi à Joulaï. C'est maman. E allora, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa 17:23. E allora andiamo un po' con un approfondimento di quello che sta succedendo in Senegal. In Senegal si terranno le elezioni presidenziali, e quindi vediamo un po' se si sente il microfono, eccoci qua. Elezioni presidenziali che dovrebbero svolgersi il 26 di febbraio. In una situazione estremamente particolare, c'è un presidente uscente che ha circa 85 anni e si ripresenta praticamente per la terza volta, Abdoulaye Wade, che andò al potere nel 2000 con le elezioni promettendo il cambiamento, un cambiamento che poi nella realtà non c'è stato. Ebbene, all'età di 85 anni lui si sente in piena forma e dice che praticamente i suoi geni familiari sono al limite della mutazione, prolungando la sua vita fino a più di 100 anni e quindi eliminando il problema della sua successione. Certo che è un po' audace il signor Wade, ma per quanto riguarda la successione lui ci ha pensato bene chi può essere il suo successore, perché il figlio Karim Wade, che già ha una serie lunghissima di cariche, sì, fra il presidente, ministro, non so. Ebbene, ha provato con un cambiamento della legge elettorale in giugno a rendere possibile questo passaggio di potere, quasi come se fosse una proprietà privata, ma non ci è riuscito, perché insomma i movimenti sociali che si sono creati in Senegal e anche il benessere da parte di tanta gioventù, insomma, ha impedito questa manovra. Vogliamo ricordarlo qual era, diciamo, qual è stato il motivo principale dello scoppio di queste proteste, ovvero la legge di giugno. Sì. Brevemente, era un progetto di legge che prevedeva l'elezione simultanea del presidente e del vicepresidente, che sarebbero potuti essere eletti con il 25% dei voti. Questa è stata, insomma, la causa principale di quelle che sono poi le proteste che si sono generate in Senegal, oltre al fatto che ovviamente la maggior parte dei giovani non vuole che Wade si ricandidi, perché insomma così facendo andrebbe a contro, diciamo, la carta costituzionale che prevede il limite di due mandati presidenziali. Quindi c'è stata anche una certa delusione da parte degli elettori giovani rispetto a Wade. Wade, quando si presentò nel 2000, era il candidato che si opponeva a Abdou Diouf, certo, il socialista che ha governato da tantissimo tempo, era il delfino di Senghor. E Wade appunto ha promesso il Mopti, adesso non mi ricordo come si dice in Wolof, cioè il cambiamento. Sopi, il cambiamento, ma appunto questo cambiamento non è arrivato, anzi il Senegal in questo momento si trova in una situazione economica estremamente difficile. Il movimento giovanile è nato da un'iniziativa di due rapper, come sì, è avvenuto anche appunto nel 2000, quando i rapper senegalesi si schierarono apertamente a sostegno di Wade, ed si chiama Yenmar questo movimento. Il movimento Yenmar nasce, il nome viene da una canzone, da un brano di Tikeja Fakoly, gli ascoltatori di Radio Africa lo conoscono, è uno dei maggiori esponenti del reggae africano, lui viene dalla Costa d'Avorio. Beh, intanto ve la faccio sentire questo brano, così poi ci riparliamo. Ignorer, on en a marre, l'Afrique en a marre, ont créé la colonisation. E quindi ci dice Tike Jaffacoli che l'Africa Yelmare, introduzione in Wolf, è stanca della colonizzazione, di questa cleptocrazia. Nel 2000 i giovani votarono soprattutto contro Diouf e anche adesso l'opposizione senegalese si trova divisa perché non c'è un'alternativa credibile, tutto fuorché Wade, e ultimamente è apparso un terzo giocatore, diciamo così, Youssou N'Dour, che si è candidato alle elezioni, ma è una candidatura piuttosto controversa. Sì, esattamente, le motivazioni principali di questa problematicità stanno proprio nel fatto che moltissimi senegalesi vedono Youssou N'Dour come un cantante che ha portato sempre avanti, insomma, anche delle proteste nei confronti del potere politico, però non ha studiato, è una persona che non ha un titolo di studio, questo per i senegalesi è comunque un aspetto molto importante, nonostante lo stesso N'Dour sostenga appunto l'importanza invece della strada o comunque del viaggio, tutto quello che alla fine ha appreso girando il mondo e non solo l'Africa, quindi è una candidatura che in realtà non ci dà certezze e che potrebbe essere anche appoggiata forse dal movimento Yanmar, però che tra l'altro non si è ancora pronunciato, cioè se non vagamente, dicendo che avrebbe voluto scegliere un candidato onesto e soprattutto un candidato giovane. Ovviamente Youssou N'Dour ha 52 anni, se non sbaglio, è uno tra i più giovani, insomma, perché poi non ci sono effettivamente giovanissimi in questa competizione elettorale. E quindi questo è ancora un aspetto tutto da valutare, da vedere. Molti cantanti, ad esempio Alpha Blondy, si sono pronunciati. Alpha Blondy dice che la candidatura di Youssou N'Dour è una candidatura molto coraggiosa, però questo andrà sicuramente a scapito del suo ruolo di musicista, perché in questo modo non potrà più denunciare, cioè non potrà denunciare quello che è il sistema a cui apparterrà se vincerà le elezioni. Certo. Comunque la sua candidatura non è stata improvvisata, perché Youssou N'Dour ha una stazione radio, una stazione televisiva e un giornale. Assolutamente, uno dei più importanti, tra l'altro. Sì, cioè una persona che ha investito molto comunque nel paese, molto presente, come dici tu, a cui molti senegalesi hanno proprio chiesto di candidarsi alle elezioni. Quindi in realtà lui dice di aver ascoltato la popolazione e di aver risposto a una richiesta che gli veniva fatta ormai da tempo. Comunque, per quanto riguarda il discorso di Youssou N'Dour, che non sarebbe in grado di governare il Senegal perché non laureato, si allunga l'ombra di Senghor, nel senso che anche Wade, per esempio, si è confrontato con questa eredità pesante, molto pesante, perché Senghor era, insomma, un poeta, uno scrittore, un intellettuale, nonché il padre chiaramente dell'indipendenza senegalese. Anche se, come tu sai, tutti i movimenti di protesta, in primis Yanmar, comunque cercano di contestano anche quella che è la figura dell'intellettuale realizzato, e quindi la mitizzazione della figura di Senghor. Questo è un discorso che ritorna ormai da anni in Senegal, e soprattutto da parte dei musicisti, dei rapper, tutti coloro che hanno portato avanti una protesta sociale partendo dalla strada, comunque, dai quartieri, dai sobborghi. Sì, anche perché poi i rapper soprattutto hanno come ascoltatori, insomma, come seguaci i ragazzi delle banlieue di Dakar, che si ritrovano quotidianamente di fronte a problemi enormi, che sono la disoccupazione che li costringe poi a andarsene dal Senegal, ma anche problemi di vita quotidiana, le continue interruzioni di energia elettrica, le strade non asfaltate, il fatto che comunque di fronte a questa condizione difficile Wade ha investito costruendo nel centro di Dakar per l'anniversario dell'indipendenza, ha speso un sacco di soldi per fare delle statue, delle iniziative decisamente discutibili. Nonostante tutto, poi questi giovani delle banlieue, insomma, il sabato sera se ne vanno per la Corniche, girando, che sarebbe la strada di Dakar, più vivace, sì. Uscendo dai locali, però insomma le problematiche rimangono. Tutti i giorni ci sono degli scontri con la polizia, perché questi giovani escono appunto dalle banlieue per protestare contro la difficoltà proprio di vita quotidiana. Certo, anche perché come si ripropone poi anche nelle nostre città, seppur con modalità completamente diverse, appunto, cioè Guadima non solo ha investito comunque nella zona centrale di Dakar o comunque in grandi infrastrutture, dimenticando nella maggior parte dei casi le grandi periferie, cioè intorno a Dakar. Quindi sì, ci sono una serie di problemi a cui sicuramente il gruppo, il movimento Yammar, il movimento del 23 giugno, cioè che poi sono un unico tra virgolette movimento, stanno dando voce, perché come dicevi tu, tra l'altro negli ultimi mesi l'interruzione di corrente era diventata aveva portato a una situazione insostenibile, si parla anche di 5-6 ore di interruzione al giorno, cioè, quindi comunque... Il disagio poi è venuto soprattutto dopo le inondazioni, ci sono state delle inondazioni in Senegal che hanno coinvolto anche la capitale, e l'impreparazione, insomma la mancanza di infrastrutture ha reso veramente penosa e gravosa la situazione per la popolazione, e da quell'evento poi è sorto insomma un movimento di opinione e di ribellione a questo stato di cose. Comunque l'alternativa a Wade è quella ufficiale, quella del Partito Socialista, che però non riesce a produrre un candidato credibile. Poi anche i rappresentanti del Partito Socialista si ritrovano coinvolti in situazioni estremamente compromettenti e imbarazzanti, come è capitato con Barthélemy Diaz, sì, che praticamente questo personaggio, che mi sembra che sia il sindaco di una cittadina, ha sparato. Vestito come un cowboy, praticamente con il giubbotto di pelle e jeans, contro dei giovani che appartenevano al PDS, al Partito Democratico. Di Wade, sì, e sparando, insomma, e mi sembra uccidendo uno di questi ragazzi o ferendolo gravemente. Tra l'altro questo è un episodio che rivela anche delle contraddizioni forti, perché pensa che da domani dovrebbe iniziare una settimana di proteste e di scioperi da parte del movimento del 23 giugno, che si ripropone tra i tanti punti comunque di liberare Diaz, o comunque di fare di tutto per farlo liberare. C'è una grande polemica sulla sua incarcerazione, sulle modalità, però sicuramente vedi, il movimento del 23 giugno in questo caso si è in un qualche modo schierato. Si è schierato contro, cioè con Diaz, quindi col Partito Socialista, anche se in realtà, come dicevamo prima, non ha ancora espresso indicazione relativamente a un candidato. Sì, questa probabilmente è una delle contraddizioni comunque di questo movimento, perché è anche un movimento che invita per esempio i giovani a iscriversi alle liste elettorali, propugna la creazione di un nuovo tipo di senegalese. E quindi insomma è anche un movimento che, nonostante la sua opposizione, però sicuramente ha delle contraddizioni. Allora ci prendiamo un attimo di pausa. Questo brano che vi faccio ascoltare è di Awadi e si chiama proprio Sunukar. Bye. Ma che di balu ak. Way bo jote patala. Dina ma fek ci gal. Yo me espay espay. Ngi ñu waxon. Ngi ñu dikon. Ñu waxon ñu koy xaar ba tay ñu waxon ñu digoon ñu waxon ñu koy xaar ba tay da ngeen ma digoon ne dina am job da ngeen ma digoon ne dina am job da ngeen ma digoon ne dina am xey deug deug man da gisuma fi fokk motax ma daw man motax ma faq jël gal waté fi dum fi tak dundu fi ci li té moko gën fu mu yem neex moko gën journaliste politique dugu djel dugu dik opposant politique dugu djel dugu dik société yu bari dañu daanu ICS son accost pakistan bës bu nek radio yi sen scandale gor gui ngor si dom gor gui dafa graw li fi xew senegal sacc kat ngay kat ñepp lañu baal li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu digoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon ñu waxon ñu koy xaar ba tay ana ndigi bi ngeen ñu digoon gisun ñu dara ñu koy xaar boppale gi du yeen yalla ñu waxon di ngi ñu genn ci ndol way tay la gëna metti ñu koy xaar ba tay li nga ñu waxoon li nga ñu digoon li nga ñu waxoon ñu koy xaar ba tay université du futur nga bëgg tek ana bu tay boy de jaxle nañ senelek bës bu nek coupé rek ken jobatul dama tay coupé rek ndox bi gëna graw ma ngi ni coupé rek ku fayul ben fan gaay ñew coupé rek duma politique man duma sani xex lu ñëpp xam lay wax lu ñëpp gis gis sen Italie lampe yi sen bon waye nak duñu lek kat goudron menuisier dafa table dundam dañ ko jox sunu xaaliss mu liggey dundam jitt tabak tali lolou witem dundam dañu voté jox ko sunu xaaliss kon dundam askanay fal yalla mayewul day abalé nit buñu fal da nga jobola nga abalé li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu digoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay li ngeen ñu waxoon li ngeen ñu digoon li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay bay li ngeen ñu waxoon yon bi dina metti li ngeen ñu digoon leeru ma ne dina ay li ngeen ñu waxoon ñu koy xaar ba tay dama sus li ngeen ñu waxoon du li leen ñu yaakaar li ngeen ñu waxoon bu rew mi neexoon du ñu dem du ci gaay li ngeen ñu waxoon du li leen ñu yaakaar. E allora l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50, questa è Radio Africa e stiamo facendo un approfondimento insieme a Serena di Africa in Movimento per quanto riguarda il Senegal e le elezioni senegalesi. Le elezioni senegalesi che sono ancora in bilico perché nella realtà dei fatti il Consiglio Costituzionale si dovrebbe pronunciare sulla validità della candidatura. Certo, della candidatura di Wade. Di Wade. Questo dovrebbe succedere questo il venerdì 27. E infatti la notizia di oggi su uno dei quotidiani senegalesi online è che il governo probabilmente instaurerà il coprifuoco a partire dal 27. Per evitare insomma proteste e disordini, si parla appunto cioè di coprifuoco a Dakar, ma non solo, e questo coincide anche con il divieto da parte del prefetto di Dakar di diciamo manifestare dal 23 al 27 gennaio, il che insomma creano un pochi problemi perché il gruppo Yamar invece e il movimento del 23 giugno ha dichiarato che da domani inizierà una settimana di protesta, manifestazioni non autorizzate ma legali. Quindi in realtà sarà interessante vedere come il governo senegalese si comporterà, cioè quale sarà la risposta almeno dal punto di vista dell'esercito che, come dicevi tu, ancora rappresenta una delle tante incognite. Sì, infatti questo è uno degli aspetti dello scenario senegalese che, diciamo così, ancora si deve disvelare per certi versi, perché la posizione dell'esercito storicamente in Senegal è sempre stata una posizione abbastanza neutrale, nel senso che il Senegal non ha conosciuto nella sua storia colpi di Stato, l'esercito d'altra parte non è neanche un esercito che è addestrato a combattere e porta avanti un'operazione di repressione nella casa Mans. Sì, quella è l'unica grande problematica costante nel tempo. Sì, infatti che ancora diciamo così non si è risolta e ha partecipato, se non ricordo male, alla guerra in Iraq con una partecipazione comunque praticamente simbolica. E l'esercito, nel caso in cui la situazione diventasse problematica, ingestibile o comunque non definita, è un'incognita che si presenta per la prima volta nello scenario senegalese e che ci riporta e soprattutto preoccupa soprattutto i giovani a una situazione analoga a quella della Costa d'Avorio, dove anche se non c'erano le contraddizioni etniche, chiamiamole etniche, poi in realtà i fatti non sono state, non erano effettivamente tali come in Costa d'Avorio, che hanno portato poi alla divisione del paese, comunque sia i giovani senegalesi insomma hanno anche un certo timore di ritrovarsi poi improvvisamente a combattersi l'uno contro l'altro per interposta persona sostanzialmente. Sì, assolutamente. Infatti adesso mentre parlavi pensavo anche in realtà che il, perché adesso parliamo, cioè, mettiamo anche l'accento su questo movimento di contestazione giovanile e loro affermano comunque parole degli ultimi giorni di non volere assolutamente arrivare alla violenza né arrivare ad atti di rappresaglia, perché secondo loro non è, cioè, il fine ultimo, soprattutto non è la strategia di medio, di lungo periodo, però anche loro lasciano comunque aperte delle possibilità, perché appunto tutto dipenderà da quella che sarà la risposta istituzionale, da quello che sarà il verdetto del Consiglio Costituzionale, da come si comporterà Wade, perché per il momento loro fanno appello alla calma, cioè poiché il mandato in effetti non è ancora terminato, il mandato di Wade, loro stanno consigliando a tutti di mantenere la calma e di appunto, come dicevi tu, iscriversi alle liste elettorali, che rappresenterebbe già un grande passo avanti, visto che insomma i giovani iscritti sono in realtà pochi rispetto al reale numero. Però pensavo che anche un'altra incognita molto importante sarà quella delle elite religiose. Qualcosa si intravede, ma lì il discorso è molto più complicato, cioè più complicato perché sicuramente anche lì ci saranno delle alleanze che interesseranno il partito di Wade, ma non solo, anche altri partiti. E è lì che si giocherà molto, perché in realtà anche il movimento, la contestazione giovanile, che si mantiene molto lontana dai marabù e dall'elite aristocratica, comunque ricche, non tutte religiose, guarda con molta diffidenza appunto alle azioni di cooptazione che potrebbero, diciamo, verificarsi da parte loro nei confronti soprattutto delle popolazioni dei villaggi, non tanto forse verso le popolazioni della periferia o dei borghi o di Dakar, ma quanto nei confronti delle popolazioni, diciamo, più lontane o comunque meno. Beh, c'è anche un legame storico fra Wade e i marabù. Sì. Quindi assolutamente c'è anche questo in caso di difficoltà, e poi Wade potrebbe anche ricorrere, diciamo così, a questa carta. E poi si parla anche delle ragioni per cui Wade ha così insistito per ripresentarsi, se da una parte voleva sicuramente garantire il passaggio dei poteri al figlio Karim, dall'altra si parla anche del fatto che a causa delle malversazioni del suo governo insomma voglia evitare poi, una volta non rieletto, di finire in galera. Certo, sì, anche perché insomma sono aumentati notevolmente alcuni problemi in Senegal comunque negli ultimi anni, cioè a livello economico la disoccupazione è aumentata, il prezzo dei beni di prima necessità è cresciuto, diciamo, notevolmente, quindi sì, sicuramente è una situazione drammatica a livello economico che Wade con alcune sue azioni non ha fatto, cioè sicuramente non ha migliorato. Anzi, tutt'altro, anche perché poi dal punto di vista dell'economia senegalese i 10 anni di potere di Wade insomma non hanno giovato, perché la crescita annua è stata dell'1,2 nel settore agricolo, che impiega più del 60% della popolazione. Una crescita così limitata non può sostenere l'aumento delle necessità alimentari, visto che poi la popolazione si raddoppia. Il Senegal in pratica ha irrigato solamente il 15% dei suoi 250.000 ettari previsti e quindi importa l'80% del riso che consuma, e questo poi è una situazione che si riflette anche su tutto il settore agricolo e il settore della pesca, che è uno appunto dei settori trainanti della sfittica economia senegalese. E all'interno di un contesto regionale che vede invece una crescita degli altri paesi dal punto di vista del prodotto interno lordo, anche se poi naturalmente la crescita del prodotto interno lordo in Africa, anche se viaggia a cifre considerevoli, non è distribuito questo aumento. Certo, non rappresenta una reale ricchezza. Appunto, questo forse è una ricchezza che va alle elite che insomma governano l'Africa, sicuramente non viene distribuita. E ci sono anche degli aspetti, per esempio, che nel contesto dello scenario africano, che possono essere sfruttati dal Senegal in quanto ha una stabilità dal punto di vista politico storica, e poi c'è anche alcune infrastrutture che non sono state abbastanza sfruttate, come per esempio il porto di Barni, che poteva servire per le esportazioni per l'Africa occidentale, non ci sono state per la liquefazione del gas naturale, non ci sono stati investimenti in questo senso. Quindi la politica economica di Wade è stata una politica abbastanza disastrosa, e soprattutto è stata una politica dispendiosa per le casse dello Stato. Sì, sì, ricordiamo uno dei tanti scandali però che ha fatto parlare moltissimo di Wade è proprio quello legato alla ristrutturazione del suo aereo presidenziale, che è costata una cifra enorme, si parla di 30 milioni di franchi cefà. Cioè, una bella cifretta. Sì, cioè, un costo notevole, che è una delle cose che comunque gli vengono rinfacciate più spesso, soprattutto dall'opposizione o comunque dai movimenti di contestazione. Allora, ritornando ai movimenti di contestazione, questi movimenti di contestazione, il movimento Yemmar nasce dall'iniziativa di due rapper, abbiamo detto, due rapper che di un gruppo che si chiama Kergi. E allora, tanto per introdurre la questione, visto che poi Radio Africa a fin di conti è anche una trasmissione musicale, vi faccio ascoltare un loro brano. Questa è la voce di Thomas Sankara, per chi non l'avesse riconosciuto. Non possiamo rembourser la dette, perché non siamo responsabili della dette. Che parla della responsabilità del debito e si chiede giustamente di chi è la responsabilità del debito. Non pourrons jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Che poi oltretutto in questo video, che sono una serie, non è un video, sono una serie di diapositive veramente molto interessanti che fanno capire quali sono i punti di vista di questi due giovanissimi rapper, Tiat e Fumalad. Sì, interessante appunto sottolineare che in realtà questi due rapper, che adesso sono le due principali figure comunque mediatiche del movimento Yammar, hanno cominciato la loro azione di protesta e quindi anche il loro percorso musicale molto tempo fa. Il gruppo Kergi, che canta prevalentemente, anzi quasi sempre in Wolof, è nato nel 1996 in occasione dello sciopero dell'Unione degli Studenti del Senegal, dell'UNES, e loro, che erano ai tempi due studenti, portarono avanti tutte le rivendicazioni bloccando praticamente il sistema scolastico. Ci fu un anno praticamente di sospensione, inizialmente mesi, poi un anno di sospensione, e loro originari dei Kaolack simultaneamente portarono avanti anche moltissime azioni di denuncia nei confronti della corruzione locale. Kaolack è una città che storicamente ha espresso comunque una forte critica nei confronti del potere sia locale che nazionale, e ci sono tantissimi militanti, anche loro provengono da famiglie di persone che comunque nel passato hanno lottato, solo che ovviamente negli ultimi anni diciamo che la voce della denuncia si era un po' assopita. Quindi loro cominciano il loro percorso di lotta nel proprio paese e verranno in seguito arrestati tantissime volte, considerate che non erano neanche maggiorenni quando hanno fondato questo gruppo, e usciranno ed entreranno dalla prigione, saranno costretti a pagare delle multe salatissime, gli verranno interdetti moltissimi concerti e anche la vendita di dischi, tutto perché loro comunque hanno diciamo portato avanti un fortissimo attacco nei confronti di quelle che erano le istituzioni locali e del sindaco di Kaolack. Uno dei primi casi di censura così palese, diciamo, sì, forse proprio il primo in effetti. Anche perché poi in Africa occidentale i gruppi hip hop sono sì portatori di una protesta giovanile, ma sono anche a volte ascoltati dalla controparte. Questo per esempio come è avvenuto in Mali. In Mali il vecchio presidente, per esempio, ricevette nel palazzo presidenziale i Tata Pound, che è un gruppo maliano che insomma faceva delle canzoni molto critiche nei confronti dell'establishment del Mali. E comunque ogni quartiere di Dakar ha il suo gruppo hip hop, e che poi prendono da una tradizione antichissima, quello appunto di raccontare attraverso la voce, attraverso il canto, in un contesto di una cultura come quella africana, che è sostanzialmente orale, quello che avviene. Quindi le loro canzoni sono molto ascoltate, hanno molta rilevanza e hanno un effetto a catena che probabilmente non sarebbe una cosa paragonabile a quello che può succedere qui in Europa. No, certo, tra l'altro mi è fatto venire in mente proprio il fatto che all'indomani delle sue elezioni Wade nel 2000 disse proprio questa cosa, cioè lui sostenne che la causa fondamentale della sconfitta di Diouf risiedeva proprio nell'attività di questi gruppi rap, cioè nella musica, nel rap, e quindi nella protesta che attraverso appunto il canale musicale veniva portata avanti. Cosa che a cui sicuramente starà pensando, cioè almeno prenderà certo in considerazione. Interessante è anche il fatto che questo non è però il primo esempio di contestazione musicale, cioè nata comunque nel contesto musicale in Senegal. Il Senegal ha diciamo una lunga tradizione da questo punto di vista. Sono le 17:56. Noi qui continuiamo ancora a parlare della situazione senegalese, ma facciamo un piccolo intervallo con un brano di un musicista senegalese che si chiama Jolof, anche lui è un rapper, ed è un musicista che insomma ha molte cose da dire come tanti rapper senegalesi, e quindi il brano si chiama Metite. Noi, in attesa di Soul Peanuts che dovrebbe iniziare alle 6, continuiamo ancora insomma questa nostra chiacchierata con Serena sulle elezioni senegalesi. Cette génération sacrifiée. Yo, au lever du soleil, le grand vieux sage allait prier. Il pense aux héritiers, il pense à leur destin de demain. Dans un pays démuni, le cri du peuple est soumis. Des richesses vendues, des dirigeants corrompus. Afrique, mon Afrique, Afrique des pires guerriers oubliés. Des enfants maltraités, des chefs de famille sans souci. Tous les jours, toutes les nuits, la misère et la famine rongent leur vie. Aujourd'hui, nos frères divisés, les opposants neutralisés. La vie condamnée à une déflation multipliée. S'émancipant dans la misère du peuple, moi je dis qu'on est absorbé, aspiré, aveuglé trop par leurs faux propos, leurs promesses d'escrocs. Que l'on vit, non vit vis-à-vis de la vie. Soumis et mépris est notre vie d'aujourd'hui. Plus de confiance, plus de conscience éveillée pour mieux avancer. Your money like your love, meditate. Don't need your love, meditate. Your love, your love, meditate. Your money like meditate. Your money like your love, meditate. Don't need your love, meditate. Your love, meditate. Nous assistons presque impuissants à l'agonie d'un continent. Un continent qui coule sous le poids des génocides, des guerres et de la famine. Un continent qui glisse vers une recolonisation, dilé par des dictateurs inconscients de la souffrance de leur peuple. Autre part, ils nous narguent à l'apogée de leur civilisation avec des images d'humiliation. Sans vous dire qu'à ce continent ils ont tout pris et ne lui ont légué que l'héritage de la honte et de l'esclavage mental. La vérité à vos enfants, nous dirons la vérité à nos enfants, et demain ils pourront survoler les barrières de l'ignorance et de la haine raciale. Plus de confiance, plus de conscience éveillée pour mieux avancer dans cette société aliénée. Nous empêchons tout espoir de liberté. Nous empêchons tout espoir de liberté. Nous empêchons tout espoir de liberté. Nous empêchons tout espoir de liberté. Nous empêchons tout espoir de liberté. Ils nous empêchent tout espoir de liberté. E allora, dicevamo a proposito dei movimenti di protesta in Senegal che partono dalla musica. Sì, che come ho accennato poco fa non si tratta di casi, cioè, nuovi in Senegal, che ha una tradizione, cioè, già radicata, che risale almeno al 1988. Diciamo che nella scena senegalese dall'88 al 90 si afferma il movimento Set Setal, un movimento di protesta giovanile che è legato soprattutto al territorio urbano di Dakar, quindi molto comunque circoscritto, e che praticamente porta avanti una protesta che allo stesso tempo va contro l'esperienza coloniale, quindi la lettura storica effettuata dal colonialismo, ma anche contro la cultura nazionalista, tutta l'ideologia nazionalista che era stata invece portata avanti nel post indipendenza. Quindi cercano di smontare in un qualche modo la mitologia della negritudine, dei valori filo-occidentali di Senghor e della figura stessa di Senghor, che in realtà, cioè, verrà poi da questi movimenti di protesta, come detto prima, demistificata, sì, per certi versi. Cioè, sì, sì, sì. Cioè, comunque loro cercano di trovare una propria strada che non sia quella del confronto con l'intellettuale che era Senghor poi. E questo movimento del Set Setal si caratterizza anche per la produzione interrotta di murales, è una loro caratteristica. Loro su tutte le strade di Dakar e della periferia di Dakar fanno questi murales rappresentanti dei grandi personaggi storici, da Sankara a Nelson Mandela o Martin Luther King. Ma anche loro ritraggono anche, questo è un dato, cioè un aspetto comunque molto interessante, tutta la cultura Wolof e i principali luoghi storici del Senegal, anche i principali scali commerciali, un po' per ripercorrere quella che è, cioè, la storia del paese, da Gorée a Saint-Louis a tante altre città. Poi ci sono invece i Boulfalé, a cui Yamar si ispira apertamente, dice di ispirarsi appunto a questo movimento che nasce nel 2000. Loro i Boulfalé si definiscono la New Generation Boulfalé e sono i ragazzi delle periferie, delle grandi periferie di Dakar. Sono prevalentemente ragazzi di strada oppure studenti in aperta collisione, rottura comunque con il potere politico, e loro reclamano una maggiore internazionalizzazione, globalizzazione. Infatti comunque rispetto a Yamar e a Tiat e Fumalad, loro cantano in francese, in inglese e in Wolof, cercano comunque di portare avanti un percorso di allontanamento da quelle che sono le per loro asfissianti comunque relazioni con le strutture tradizionali, dalla famiglia alle strutture religiose, cercano comunque di distaccarsi. Una cosa che mi ha un po' colpito di questi giovani rapper è la loro memoria storica rispetto al Senegal. Anche vedendo prima, insomma, scorrere le immagini di questo video dei Kirghiz, insomma, si vedevano i tiraglie senegalesi, sì. Si vedevano tutta una serie di situazioni che, insomma, ricorrono e che fanno parte della memoria storica del Senegal, soprattutto della post-indipendenza e della relazione complessa con la Francia. E quindi sono giovani che, insomma, non dimenticano. No, si sono fatti una cultura propria sul Senegal e non solo, e in questo caso bisogna anche considerare che appunto Kerguy nasce, è stato fondato da due giovani, giovanissimi, che non hanno neanche loro terminato gli studi, ma che, come in questo caso c'è una specie di paragone o comunque di somiglianza con Youssou N'Dour, hanno appreso dalla strada, cioè hanno imparato e poi si sono impegnati da soli per arrivare comunque anche a un processo di presa di coscienza. Bene, allora, a proposito di Boulfalé, Positive Black Soul sono uno dei gruppi che all'inizio, tutto intorno al 2000, si sono espressi a sostegno di questo movimento. Boulfalé, ve la faccio proprio ascoltare questa canzone. E allora, 18.06 ha fatto irruzione nei nostri studios sul Peanuts, che inizierà fra non molto a intrattenervi col suo jazz, e quindi Radio Africa si appresta a lasciarli i comandi. Vi ricordo che siete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. E allora noi di Radio Africa chiudiamo qui, questo è Bulfalé, e pensiamo insomma con Serena di continuare insomma anche nelle prossime settimane a intrattenervi l'ultima mezz'ora di Radio Africa sulle questioni che riguardano appunto le questioni africane, cercando di seguirle con continuità, perché come dire c'è molta carne al fuoco. Sì, sì, poi la prossima settimana molte situazioni saranno già più chiare, anche certo, quella senegalese. Sicuramente. Quindi a sabato prossimo, saluto tutti e tutte. Ciao. Allora, vi lascio in compagnia di quest'ultimo brano, loro sono i Daraji e il brano è Esperanza. Je m'enthousiaste et fougueux, rêver de choses que ce n'est pas.